Non ta quita le da, non ta qui. Non ta quita le da, non ta qui. Non ta quita le da, non ta qui. Non ta quita le da, quita le da. A me che, quita le da, quita me che, quita le. Esse mais dor de cabeça. E o bravo, che, non ta quita le da, non ta quita me che, non ta quita le da, non ta quita me che, non ta quita le da, non ta quita me che, non ta quita le da, non ta qui. Colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo. Anda pa. Non ta quita le da, non ta qui, colo, colo.